New Zone, incontro con gli europarlamentari. Nome: Renata. Cognome: Briano. Età: 52. Nata: Genova. Eletta in? Nel collegio Nord-Ovest, Liguria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta. Con quanti voti? 46.940. Ogni singolo voto è importante. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Socialisti e Democratici. Segni particolari? Poco trucco e scarpe basse. Quante lingue parla? Parlo il francese, me la cavo in inglese, me la cavicchio in spagnolo e cerco di parlare bene in italiano. Competenze europee in 10 parole? Ambiente, sviluppo sostenibile, pesca e diritti. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24. Dall'Unione Europea 250 milioni di euro per un programma di distribuzione di frutta e latte gratuiti nelle scuole. Investimento nella sana alimentazione. Ma da dove verranno i prodotti distribuiti? La priorità sarà data ai prodotti freschi e locali, nonché quelli biologici. Sono il meglio per i nostri bimbi europei. L'Europa però non detta azioni precise, perché ogni singolo Stato disporrà le misure migliori a seconda dei territori. E in Italia, per quanto riguarda frutta e verdura e latticini, non siamo secondi a nessuno. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui porti, tentativo di unire nord e sud. Beh, lo scopo di questo regolamento è sicuramente superare la conflittualità esistente tra i paesi europei su un tema così importante, per la prima volta fra l'altro. Non penso si debba parlare di nord o sud, di est o d'ovest, ma solamente di Unione Europea, e con questo provvedimento ci siamo riusciti. L'Unione Europea diventa protagonista solo su temi precisi e ristretti. Tutto il resto dove rimane? Beh, questo me lo chiedo anch'io a volte, perché purtroppo a livello mediatico vengono ripresi solo alcuni provvedimenti europei, principalmente quelli che possono innescare più polemiche. Nuove quote di pesca per il tonno rosso, grandi armatori contro piccoli produttori? No, noi siamo per una pesca sostenibile, che significa sostenibilità ambientale ma anche sociale, perché nella pesca lavorano tantissimi pescatori e quindi tantissime imprese, tantissime famiglie. E con l'introduzione delle quote di pesca per il tonno rosso, lo stato di salute della specie è considerevolmente migliorato. Quindi adesso le quote, che prima erano distribuite solo a pochi, devono trovare una distribuzione più equa nel futuro. Se non avesse fatto politica? Beh, mi sarebbe piaciuto realizzare documentari naturalistici. E un giorno invece nel futuro spero di poter assecondare di più la mia passione per la cucina. Il suo piatto preferito? La focaccia al formaggio di Recco. L'ultimo libro letto? Angelicamente anarchico, di Don Andrea Gallo, un genovese come me, un mito, e lo consiglio vivamente a tutti. Il suo motto? Più Europa. Un voto all'Europa da 1 a 10. Mi spiace, ma devo dare un'insufficienza, un 5. L'Europa così com'è non va. La risposta però non può essere ognuno per sé, perché saremo tutti più deboli. Serve una reale e forte Unione Europea, che amo chiamare Stati Uniti d'Europa, che rimane per me il sogno per cui sono qui a lavorare. U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.